Before hearing the dialogue at the cash desk, it's time to learn the rest of the numbers up to 100. Cento. You only need four more numbers. You've already heard two of them. Remember the Uffizi phone number in Unit 5? When Signora Renzi had a problem with the number, it's because she heard 93. 93 instead of 83. 83. So if 93 is 93, 90 is 90. And if 83 is 83, 80 is 80. Listen to those again and repeat. 80. 90. And now the other two words. Listen and repeat the Italian the second time you hear it. Ascolti e ripeta il dialogo dopo la seconda volta. 60. 60. 60. 70. 70. 70. Before hearing the dialogue, alla cassa, at the cash desk, alla cassa, ascoltiamo le parole e le espressioni nuove. Le ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Vorrei. I'd like. Vorrei. L'uno. Each. L'uno. Più. Plus. Più. Centesimi. Cents. Centesimi. In tutto. In total. In tutto. Il resto. The change. Il resto. Lo scontrino. The receipt. Lo scontrino. E adesso, come al solito, ripassi il nuovo vocabolario e, quando si sente sicuro, ascolti il dialogo.